Focus Economia di Sebastiano Barisoni. L'undicesimo minuto, 17:10, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria, come sempre venerdì, era poco invidiabile, oggi più che mai poco invidiabile classifica di Focus Economia, il caso virtuoso. Devo dire che la cronaca vede soprattutto un interesse su quello che sta emergendo dalla prima giornata di lavori dei G7 di Bari. Per quello che riguarda soprattutto, ma ne parleremo nella seconda ora del programma, l'ipotesi di una web tax. È un tema a cui tiene molto l'Italia, e cioè arrivare a una tassazione di carattere, un accordo di carattere internazionale sulla tassazione dei grandi colossi del web che pagano pochissime tasse, per esempio in Italia, e tendono a pagare laddove più gli conviene. Ma diciamo l'obiezione, anche multate, anche hanno raggiunto accordi con l'Agenzia delle Entrate, è che tu le tasse, come sempre, le devi pagare nel paese in cui produci ricavi, non dove meglio e dove fa più comodo a te, altrimenti tutti quanti vorremmo poter pagare tasse a Dublino o in Lussemburgo. Ma sfruttando, diciamo, l'ubiquità, la liquidità del web, loro dicono: no, noi non abbiamo una sede vera in Italia, noi le paghiamo dove abbiamo sede. Comunque, vi arriveremo. Su questo, la borsa oggi si muove ancora su temi legati molto, come devo dire, come tutta la settimana, alle trimestrali. Nel caso specifico è in positivo Banco BPM, che guadagna il 6%, ieri diffuso un utile netto in crescita del 7,5% a 117 milioni di euro. I crediti deteriorati netti sono in calo di 2,2 miliardi. Con un'incidenza totale sugli impieghi che è scesa dal 15 al 13%. Per quello che riguarda Telecom Italia, più 2,5%, sono ripartiti gli acquisti, la trimestrale era molto buona, il titolo, diciamo, è ai massimi da un anno ormai, e si attende di capire cosa farà Vivendi e chi sceglierà Vivendi dopo la decisione dell'autorità, cioè se la quota che ha in Telecom o la quota che ha in Mediaset. Sale Atlantia, devo dire, ma non solo, anche Italgas più 2%, Unipol più 1,70%, Azimut più 1,40%. Il fronte opposto invece di chi perde, guidato tra i titoli di maggiore capitalizzazione da Prismian meno 3,70%, Buzzini cioè meno 2,40%, Jux meno 1,5%, Tenaris meno 1,30%, come Leonardo l'1,1% lo perde Brembo e anche Moncler. Complessivamente l'indice guadagna lo 0,20%, Parigi più 0,20%, Francoforte più 0,30%, Londra più 0,40%, Dow Jones meno 0,15%. Anche su Prismian pesano la trimestrale, in questo caso deludono le indicazioni sul 2017, l'utile a 37 milioni, ricavi meno 3,7%. Ce ne occuperemo, così come oltre alla classifica avremo, ripeto, il caso virtuoso. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi c'è la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Partiamo subito con i 100 secondi e mi ricollego al vertice del G7 in corso a Bari, vertice dei ministri delle finanze, quello, diciamo, dei capi di Stato, come tutti sanno, si terrà invece a Taormina, perché i 100 secondi trasmessi come sempre anche su RDS, oggi a firma del vice direttore Alessandro Paterotti, si concentrano su Cipro come, diciamo, paradiso fiscale, non un purgatorio, un paradiso fiscale. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Plateroti. Chi vuole pagare meno tasse, comprarsi una bella villa al mare, vivere serenamente senza l'incubo del fisco, non ha più bisogno di trasferirsi alle Bermuda o alle Cayman Islands. Il paradiso fiscale più gettonato del momento è nel cuore del Mediterraneo e ha persino la presidenza di turno dell'Unione Europea, Cipro. L'isola, che solo fino a pochi anni fa era sull'orlo della bancarotta, è riuscita a rialzarsi clamorosamente e ad uscire dalla crisi non soltanto grazie ai cospicui aiuti europei e del Fondo Monetario, ma soprattutto con un'ondata di denaro proveniente dall'estero, quella dei miliardari russi, francesi, tedeschi e persino inglesi, che hanno versato almeno 2,2 milioni di euro ciascuno per ottenere in cambio un passaporto di Cipro, isola dove le tasse sono notoriamente le più basse d'Europa. Il programma, per certi versi discutibile, viste le polemiche che hanno circondato le residenze fiscali in Olanda, Belgio e Lussemburgo, ha dato grandi risultati all'isola e soprattutto a un governo che doveva rialzarsi e ripagare i prestiti che aveva fatto per le banche. 2.000 passaporti sono stati venduti per un gettito complessivo di 4 miliardi di euro, pari a circa il 25% del PIL annuale dell'isola. Che fare? Come giudicare queste iniziative? Certamente fa riflettere il fatto che in Italia, quando si è parlato di una flat tax di 100.000 euro per avere la residenza fiscale in Italia, certamente un richiamo per i ricchi europei, si sono sollevate mille polemiche dicendo che veniva svenduto il paese. A questo, a Cipro, nemmeno ci pensano. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Altre notizie in breve, partiamo dal G7, di Bari, appunto, dove è iniziata, insomma, con una corsa lungo un tragitto di 6 km da parte di una quarantina di delegati del G7, giornalisti, hanno fatto una corsa, un run, una corsa vera e propria podistica. Devo dire che ha corso anche il governatore della Banca d'Inghilterra, Mark Carney, forse più in forma e più veloce dei corridori. Però, diciamo, nella scelta dei governatori delle banche centrali, forse questo è un elemento secondario. Tra l'altro, sempre per quello che riguarda, c'era anche una parte significativa dello staff del ministro Padoan, dal lungomare monumentale fino ai vicoli medievali della città vecchia. Non so se qualcuno si sia perso, non risulta. Alle agenzie, invece, per quello che riguarda la Grecia, il Fondo Monetario non cambia posizione, l'ha detto appunto da Bari il direttore Christine Lagarde. Non abbiamo ancora cambiato la nostra posizione sulla Grecia, continuiamo a lavorare su questo pacchetto di alleggerimento del debito. Speriamo che anche le autorità europee continuino a lavorare in tal senso. Il G7 delle indiscrezioni dovrebbe arrivare domani a una comunicato in cui si chiede un accordo all'OCSE sulla web tax, e sarebbe una vittoria italiana e del deputato Boccia, Francesco Boccia, ma ripeto, ne parleremo nella seconda ora del programma. Anche il ministro Padoan comunque ha detto che la web tax è una proposta che sta prendendo corpo, ci sono diverse proposte nazionali, ma insomma stiamo arrivando a una convergenza, il G7 serve proprio a questo. E poi Padoan è tornato sul tema dell'inclusione e della crescita: senza inclusione non c'è crescita. C'è un tema su cui vorrei richiamare la vostra attenzione, che è quello della crescita e dell'inclusione sociale, che è diventata al centro dell'agenda del G7 e anche del G20. Per questo io sono molto contento che l'Italia porta avanti queste tematiche. Senza inclusione sociale la crescita non si sostiene e deve essere portata avanti. Poi vorrei farvi ascoltare, abbiamo parlato molto di Emiliano per la sua difesa, a nostro avviso sbagliatissima, degli Ulivi e per non aver fatto la stessa cosa quando ci fu la rete idrica pugliese, ma non voglio tornare sul tema di Emiliano. No, vorrei far ascoltare il commento del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, quindi di chi fa gli onori di casa, il G7, a chi gli ha chiesto, insomma, di commentare l'affermazione del Ministro dell'Economia Padoan, in cui ha detto, insomma, al G7 parleremo molto di disuguaglianze. Emiliano ha risposto così. Dovrà fare tanta fisioterapia per riuscire a parlare di... E io di fisioterapia in questo momento me ne intendo, cioè bisogna cambiare tutto, cioè se Padoan cambia tutto io sono felicissimo, siamo tutti felicissimi. Certo non sarà facile, per farlo dovrà fare la fisioterapia, come ho detto, a se stesso, probabilmente a tutti i ministri delle finanze del G7 e probabilmente anche ai banchieri, perché questa ricetta monetarista che immagina che il mondo si sistemi mettendo in equilibrio salari e prezzi senza politiche che sostengano la domanda e sostengano gli investimenti pubblici a favore dei diritti delle persone, è una teoria che ormai quasi religiosa, che tutti hanno verificato infondata, perché non sta dando risultati da nessuna parte. L'unico paese che è cresciuto seriamente, ha superato la crisi economica, sono stati gli Stati Uniti nella gestione Obama. James Galbraith è il consulente che ha suggerito a Obama le ricette che hanno riportato gli Stati Uniti in una crescita equilibrata, e sono ricette keynesiane, non certamente monetariste. Certo, aggiornate, verificate alla luce di ciò che accade con questo contesto storico, ma pur sempre politiche opposte a quelle del G7 e dell'Unione Europea. Oh, so che non fregherà niente a nessuno, ma posso dire che stavolta sono d'accordissimo con Emiliano. L'abbiamo sostenuto modestamente anche noi in questi anni, che vi fosse un eccesso non solo di monetarismo, per essere ancora più precisi, cioè non solo di un'economia che si basa su tassi di interesse e massa monetaria, ma anche in generale di un rigore eccessivo sui conti da parte dell'area euro e quindi della trazione tedesca, che non distinguono mai nei deficit tra spese, quindi costi, e investimenti. E continuiamo a dire che se si potesse scorporare dal deficit che un paese fa la parte che riguarda gli investimenti, quindi di maggiore competizione futura di investimento sul paese, dai costi veri e propri, penso ai costi dei beni intermedi della pubblica amministrazione italiana, sarebbe già un passo in avanti, senza vedere che ogni euro che, senza immaginare che ogni euro che esce dalle casse dello Stato sia sempre comunque un costo. In alcuni casi possono essere anche investimenti. Il problema è che noi continuiamo a ridurre gli investimenti pubblici mentre non stiamo riducendo di gran lunga il debito, e conseguentemente quindi continuiamo a pagare tanto di costi e poco di investimenti. Ma se l'Europa si mettesse in testa di agevolare, diciamo, un deficit che si crea per investimenti, invece bastonare il deficit che si crea per costi, perché non hai saputo ridurre i costi della pubblica amministrazione, ripeto, saremmo già un passo in avanti. Oggi sul tema è intervenuto anche il commissario degli affari economici Pierre Moscovici da Bari, a chi gli ha chiesto: verrà data maggiore flessibilità all'Italia nel 2018, per il 2018, quindi per la manovra che dovrà essere approntata poi in autunno. Non siamo al momento delle decisioni, ha detto Moscovici, stiamo discutendo. Ci sono delle regole, l'Italia deve impegnarsi, ma finora tutta la flessibilità possibile è stata garantita, non siamo rigidi, il dialogo tra la Commissione, l'Italia e il Ministro Padoan è buono. Due notizie, in breve. Oggi c'è il dato del Centro Studi di Confindustria sulla produzione industriale ad aprile, che segnala un ulteriore recupero, più 0,5% su marzo, e gli indicatori continuano a mostrare un'intonazione molto positiva sul manifatturiero e riflettono un contesto economico in netto miglioramento nei mesi primaverili. E infine sulla nautica, oggi una ricerca della CNA presentata a Viareggio ha fatto notare come ogni 10 imbarcazioni da diporto al mondo una viene realizzata in Italia. Siamo il secondo produttore al mondo, dietro agli Stati Uniti, che sono inarrivabili, 43%, ma davanti a Regno Unito, Olanda, Germania e Francia. E devo dire che da questa ricerca emerge che l'arrembaggio, diciamo così, dei produttori asiatici sembra per ora sotto controllo. Segnalo però che dall'inizio della crisi e da alcune scelte anche un po' discutibile degli ex governi, la filiera delle piccole e medie imprese che lavora per la nautica italiana ha comunque perso 3.000 posti di lavoro. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Allora partiamo con la poco invidiabile classifica della settimana, e oggi ce n'è, andiamo subito con la classifica, dai. La classifica della settimana. Allora, oggi non so se riusciamo a fare tutti in 5 posizioni. Partiamo dal quinto posto. E qui non c'è un tema di spreco, infatti potrebbe essere un quinto bis, volendo. È proprio la mentalità della pubblica amministrazione di questo paese. Allora. Per, diciamo, come ogni anno, convocare, diciamo, e annunciare l'avvio della, che anche quest'anno i nostri ragazzi faranno gli esami di maturità, il ministro, la ministra dell'istruzione Valeria Fedeli è riuscita nel record di utilizzare per ben 59 volte la premessa visto oppure vista e più un insieme di considerato e due ritenuto. Perché lo dico? Perché il totale con cui l'ordinanza con cui il ministro convoca gli esami di maturità, che sono una cosa eccezionale, non si verifica mai, verso giugno, è composta da 49 pagine per dire attenzione, anche quest'anno ci sono gli esami di maturità. Per la precisione 23.285 parole. Faccio notare che il manifesto del Partito Comunista di Engels e Marx era di 25 pagine, a metà. Ma addirittura Papa Giovanni XXIII riuscì ad aprire il Concilio Ecumenico Vaticano II, una robetta da niente, con 3.786 parole, cioè un sesto di quello che ci ha messo la Fedeli per annunciare l'esame di maturità. Ma sappiamo che non c'è paragone. Il Concilio Vaticano di Papa Giovanni XXIII è una robetta. Qui stiamo parlando di esami di maturità. Allora, dunque, ci sono. Io non posso leggerla tutta perché impazziamo. Vi faccio alcuni esempi su come viene stabilita l'ammissione dei candidati esterni alla maturità di questo paese, dalla Repubblica. Virgolette, l'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento dell'esame preliminare di cui l'articolo 7 della presente ordinanza, aperta parentesi, legge 11 gennaio 2007, numero 1, articolo 1, capoverso articolo 2, comma 3, punto e virgola, articolo 1, quinquies del decreto legge 25 settembre 2009, virgola, numero 134, virgola, convertito con modificazione dalla legge 24 novembre 2009, virgola, numero 167, chiusa la parentesi, le virgolette. Questo è per dire che i candidati esterni, per essere ammessi, devono superare l'esame preliminare. Va bene. Allora, faccio anche notare, no, perché sarebbe interessante che gli studenti facessero il tema su questo. Vi faccio notare che c'è anche una frase che dice, quanto a politically correct, aperte virgolette, valutato, virgola, da parte del dirigente scolastico, virgola, l'interesse della bambina o del bambino, virgola, dell'alunna o dell'alunno, virgola, della studentessa o dello studente. Oh, ma mi spiegate, ma uno può essere bambino e studente, può essere alunno o alunna e studentessa, può anche essere, immaginiamo un po', alunna e bambina, cioè, ma perché complicarsi tutto in questo modo? Però va detto che questa è solo una chicca del nostro linguaggio burocratico, che comunque costa tempo, carta inutile, ripeto, 49 pagine per dire che c'è la maturità anche quest'anno, un libricino. Faccio notare che nel nostro linguaggio burocratico i gatti randagi, lo dico per inciso, perché sapete, un paese si giudica anche dal modo in cui parla, le persone si giudicano dalle parole che usano. Allora, se tu hai un paese in cui i gatti randagi vengono definiti atti al vagantismo felino, ma che cavolo è il vagantismo felino? Ma che sono homeless? Le biciclette sono ancora definite velocipedi con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, e lì si apre l'incognita delle bike di adesso, quelle che metà pedalata assistita, che devono avere le biciclette, secondo la burocrazia italiana, la superficie di rotolamento della ruota deve essere cilindrica senza spigoli, sporgenze o discontinuità, cioè vengono vietate dalla burocrazia italiana le ruote quadrate, lo dico perché è importante anche questo. E poi ci sono altre chicche, non so, la circolazione delle slitte, la burocrazia si occupa anche della circolazione delle slitte in questo paese, e scrive giustamente che la circolazione delle slitte, cito il virgolettato, la circolazione delle slitte è ammessa solo quando le strade sono ricoperte di ghiaccio o neve. In effetti, chi ci ha provato con l'asfalto caldo a Roma nel periodo estivo, qualche problema con la slitta l'ha avuto, pure il cane non stava benissimo. La consulenza viene definita dalla burocrazia italiana, sapete come? La consulenza è un supporto consulenziale. È un supporto consulenziale, cos'è? È consulenza. E poi ce n'è un l'ultimo che voglio citare per andare poi al meteo e andare sui quattro casi, ahimè, ben più drammatici quanto a costo. Sapete che nel nostro paese, nella burocrazia, ci viene anche citata questa frase. virgolette, esiste un autocertificato che si chiama autocertificazione di esistenza in vita. Non sto scherzando. Cioè, tu puoi essere chiamato a autocertificare che sei realmente vivo. Siccome è un'autocertificazione, c'è anche il reato se tu dichiari il falso. Cioè, se sei morto e dici che sei vivo, sono problemi. No, no, non sto scherzando. E la devono presentare i vivi dati per morti. E qua iniziamo a guidare con una mano sola perché è in macchina. Ogni tanto capita che qualcuno venga detto lei è morto, mi dice no, io sono vivo, autocertificati. Dunque, pensate che l'autocertificazione di esistenza in vita, il testo, esordisce in questo modo. Il sedicente vivo, se io sarei vivo, ma insomma, sono un sedicente vivo, dichiara di essere consapevole che in caso di dichiarazione mendace, cioè di bugia, sarà punito. Allora, fammi capire. Quindi, se io dico che sono vivo, ma è falso perché sono morto, verrò condannato. A che cosa? All'inferno, ai gironi danteschi. Purtroppo è tutto vero, tant'è che si dice verrà tradotto in giudizio. Ma dove? Ma il giudizio a quel punto è il Padre Eterno, se uno ci crede. Cioè, tu devi essere consapevole, il sedicente vivo deve essere consapevole che se dichiara di essere vivo ma non lo è, dichiarazione mendace, siccome è un'autocertificazione, sarà punito. E qui ci vuole un aiuto, per favore, dalla regia, per favore. Signorina! Dove sta? Sì. La signorina. Quale signorina? Hai detto signorina? È andata la signorina. Avanti! Animale, signorina! È l'intestazione autonoma della lettera. Signorina. Veniamo noi con questa mia a dirvi. Veniamo noi con questa mia a dirvi. A dirvi una parola. A dirvi. A dirvi una parola. Che? Scusate se sono poche, ma 700.000 lire, punto e virgola, noi ci fanno specie che quest'anno, una parola, quest'anno c'è stato una grande moria delle vacche. Una grande. Come voi ben sapete. Voi. Punto. Punto. Due punti. Ma sì, fai a vedere che abbondiamo. Abbondantis ad abbondandum. La natura di prima mano. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. minuti. Sì, mi hanno scritto nel frattempo molti ascoltatori, dicendo guardi che l'autodichiarazione di essere in vita, l'autocertificazione, si riferisce all'ipotesi che qualcuno di una falsa dichiarazione per sostituzione di persona. Ho capito, ma avete letto che cosa prevede? Cioè che tu devi essere consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarai punito. Cioè se sei morto e dichiari di essere vivo, che ancora non ho capito come si faccia, però verrai punito. Quindi andiamo avanti, dai, quarto posto. E qui però non è che andiamo molto, molto distanti, perché purtroppo è tutto vero, ma la fantasia del fisco italiano è una cosa... Cioè, io non capisco che cosa si fumino quelli che scrivono le leggi e quelli che si inventano, come a Modena, la tassa sullo zerbino. Praticamente decine di commercianti del modenese si sono visti recapitare cartelle esattoriali da saldare, perché che indicano come infrazione pubblicitaria non dichiarata quella dei tappetini all'ingresso dei negozi. Se il tappetino indica il nome del locale, secondo l'interpretazione che è andato a Modena, è pubblicità. Siccome la pubblicità la devi pagare, gli ha mandato la contestazione. Praticamente l'imposta si applica a tutti coloro che effettuano diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni. Ora, l'articolo di legge non cita lo zerbino. Io avrei un suggerimento, tra l'altro, insomma, iniziare a punire i commercianti perché hanno avuto l'ardire di dotarsi di zerbini col nome del loro negozio. Cosa dovevano scrivere? Viva Maria sopra, senza denunciarli come pubblicità. Non si è presentato alcun funzionario, la cartella però è arrivata. Io suggerisco a Modena, all'Agenzia delle Entrate, di applicare non la tassa sullo zerbino, ma la tassa sugli zerbini, esseri umani, che include anche la mia categoria, me stesso in primo luogo, la pagherei, dai, così faccio la battuta al posto degli ascoltatori, degli haters. Applichiamo la tassa sugli zerbini umani, cioè quelli che si prostrano al capo, al superiore, al, no, a tutti i poteri forti, e vedrai che con la tassa sugli zerbini i soldi li facciamo. Purtroppo devo andare adesso invece ai vitalizi. Terzo posto per i vitalizi. Allora, c'è una buona notizia, perché con un accordo tra PD e Movimento 5 Stelle, la regione Emilia-Romagna ha deciso il taglio dei vitalizi degli ex consiglieri regionali. Hanno già abolito i vitalizi per gli attuali eletti, ma anche questo vale anche per gli ex. Il risparmio sarà circa di 1 milione in questa legislatura. Hanno innalzato l'età pensionabile degli ex consiglieri da 60 a 67 anni, bontà loro. Hanno operato una decurtazione di solidarietà per il vitalizio per 3 anni, un divieto di cumulo con altre cariche. Tra l'altro questo coinvolgerà anche Pierluigi Bersani, che aveva 2 vitalizi, uno da ex consigliere regionale e uno da parlamentare. Quindi il vitalizio non scatterà più a 60 anni ma a 67, e anche se l'allungamento dell'età pensionabile sarà progressivo e procederà di un anno ogni 12 mesi. Vabbè. Buono questo, sì, buono, ma tra l'altro colpisce anche l'ex presidente della regione Vasco Errani e quant'altro. Il problema è che mentre la regione Emilia-Romagna fa questo, il Senato non si è ancora mosso per frenare la corsa ai vitalizi, come ha già fatto la Camera. È a 2 mesi di distanza dal passo fatto dalla Camera, il Senato è ancora fermo. Aspetta, e mi raccomando. Che cosa ha fatto la Camera? La Camera ha varato un prelievo di solidarietà sulle pensioni che percepiscono gli ex deputati a partire dal 1 maggio 2017 per 3 anni. Gli assegni vitalizi e i trattamenti previdenziali diretti o di reversibilità daranno un contributo straordinario di solidarietà sulla parte eccedente l'importo di 70.000 euro lordi annui. Faccio notare che 70.000 euro lordi l'anno sono mal contati circa 40.000 euro netti all'anno di pensione. Non è pochissimo con quello di cui ragioniamo sul milione di pensionati sotto i 500 euro. Non è che stiamo parlando di... Però... Per la parte eccedente i 70.000 euro lordi vi sarà un 10% tra 70 e 80.000 euro lordi l'anno, poi un 20% per gli 80-90.000 euro, un 30% dai 90 ai 100.000, un 40% per la parte eccedente ai 100.000 euro. Ci sono però, e lo segnalo, purtroppo i nomi non li ho, perché i nomi e il partito di appartenenza di questi 6 che hanno fatto ricorsi su ricorsi sono top secret, sono coperti dal diritto alla privacy. Ma perché? Sono i deputati, o comunque hanno fatto i deputati, hanno svolto un ruolo pubblico. Cosa c'entra la privacy? Io voglio sapere se quello che ho eletto o nel passato o adesso ha fatto un ricorso, poi lo valuterò per questo, magari gli do pure ragione, bravo, hai fatto bene a ricorrere sul tuo vitalizio, ma voglio saperlo, perché sono coperti dalla privacy? Ma che è sta cosa? Mica è un'attività privata, mica parliamo della loro vita privata. Sostengono che il prelievo di solidarietà va applicato con una legge, non con una delibera d'ufficio. Ma dai, vuoi rimandare tutto? Infatti il Senato aspetta, perché anche il Senato, perché immagina che tutto si bloccherà. Ci sono in questo momento tra Camera e Senato 25 ricorsi contro le passate riforme, 10 in appello contro la riforma delle pensioni, 4 in appello contro la sospensione dei vitalizi agli ex parlamentari condannati in via definitiva, pure su questo hanno fatto ricorso, e 9 istanze sul riscatto del vitalizio delle precedenti legislature. 6 sono invece ricorsi al Senato che riguardano la sospensione del vitalizio per i condannati. Io non capisco come si faccia a ricorrere su una roba del genere. Comunque questa era al terzo posto. E andiamo andiamo al secondo posto, perché poi ho anche il primo. Con un appello, oggi vado di ex aequo. C'è una vicenda che mi fa particolarmente specie, non so neanche come mettere in classifica, ma la segnalo agli ascoltatori e soprattutto al governatore della regione Calabria, Mario Oliverio. Che cosa succede? C'è un ragazzo, che adesso è un adulto, che dopo anni di esperienza, laureato in scienze agrarie, studia botanica, lavora in Belgio, Francia, Spagna, Australia, torna in Calabria e si accorge, si chiama Carmine Lupia o Lupia, Lupia penso, si accorge che in Calabria c'è un'area bellissima che si chiama area di Valli Cupe, che ha scenari pazzeschi, monumenti geologici come canyon, cascate immersi in una cornice di vegetazione lussureggiante, alberi secolari, antichi monasteri basiliani, antichi borghi medievali come la città di Barbaro. Insomma, un posto così bello che il National Geographic lo mette proprio, gli dedica un servizio apposito. Faccio notare che il Touring Club italiano fino a pochi anni fa manco sapeva l'esistenza della valle, delle Valli Cupe, ma va bene, non ce l'ho col Touring Club. Questo ragazzo con 12 amici, quando rientra, ragazzo adulto, si mette a lavorare perché venga valorizzata l'area. Ce la fa, si mette a tracciare sentieri per gli appassionati di trekking e ottengono recensioni incredibili su TripAdvisor. E in pochi anni da zero vengono sviluppati 7 musei e poi 7 ristoranti, 45 posti letto negli alberghi diffusi, 50.000 visitatori l'anno e anche una decina di assunti più un'altra decina a livello stagionale. Area di Valli Cupe si chiama. Che cosa succede? Dopo il successo dell'iniziativa volontaria, così si interessa anche la regione Calabria e con la legge regionale istituisce, c'è una legge regionale sui parchi che dovrebbe tenere distante la politica dei parchi, però insomma, e decide di costituire la riserva naturale. Ora, siccome tutta la riserva naturale, la grande parte di questa riserva è nel comune di Sersale, che ha aiutato Lupia in questi anni e i suoi 12 amici, hanno messo su una cooperativa, si chiama Segreti Mediterranei, la cooperativa di Lupia. Beh, tu ti immagini che chi verrà messo a gestire la riserva naturale che sostanzialmente ha sviluppato lui? Lo stesso Lupia, è biologo, ha fatto questo lavoro con una cooperativa, è riuscito a creare un fenomeno di cui si occupa anche il National Geographic. Tu ti immagini che la regione Calabria metta obiettivamente Carmine Lupia? Ma che? Ma la riserva viene affidata a un consorzio tra il comune di Sersale e quello di Zagarise, che c'entra poco perché ha solo 100 ettari su 500 del parco e ha solo 2 siti di interesse contro 10, però ha un sindaco molto amico, non è un peccato, è lo stesso governatore. E poi la dote non è male, perché la riserva riceverà 100.000 euro dalla regione e qualche milione per le aree protette messe a disposizione dell'Unione Europea da spartire tra i due comuni. Ora, per 2 volte sono riusciti a bloccare in regione il blitz di Mario Oliverio. Lo ha spiegato anche il sindaco di Sersale, Torchia, dice: guardate che la spartizione avrebbe violato la ratio della legge che prevede che non ci siano intermediari politici. Io faccio un appello al governatore: governatore, faccia un bel passo indietro, dia un riconoscimento a sti ragazzi, a questa cooperativa che ha valorizzato un territorio, lasci fuori la politica i sindaci della sua area, non me ne frega nulla, e dia un segnale che anche in Calabria è possibile riconoscere il merito. Ma andiamo al secondo e al primo posto, così recupero il tempo. Allora, chi di voi è stato a Napoli in questi anni sa che i lavori della metropolitana vanno avanti da anni interminabili. Soprattutto ricordo che con lo spray davanti a Castel dell'Ovo, cioè da quando io vado a Napoli, ci sono i lavori della metropolitana. Tant'è che sui jersey attorno agli scavi, con lo spray, tempo fa avevano scritto una cosa bellissima che solo i napoletani potevano formulare in quella definizione, perché dopo anni e anni e anni di lavori uno con lo spray sopra gli aveva scritto: ma state scavando o state cercando? La trovo fantastica. Dopo il traffico vediamo perché stanno più cercando che scavando. Focus Economia. E allora andiamo sul primo posto. Poi devo dire che oggi veramente la classifica potevamo farla a 10, non a 5. Ma la vicenda scandalosa del primario di Parma, Guido Fanelli, lui arrestato, direttore della struttura di anestesia, rianimazione e terapia antalgica dell'ospedale maggiore di Parma, arrestato e ai domiciliari con lui altre 4 persone, il rettore dell'università Loris Borghi indagato assieme ad altri 75, la presentiamo la prossima settimana, così come l'evoluzione della vicenda del CNR, quando il mitico Vittorio Gargiulo già lo beccammo, che usava i soldi del CNR, dell'Istituto Ambiente Marino Costiero, per fare di tutto, ristrutturarsi casa, vasche, idromassaggio. Beh, in effetti se l'Istituto Ambiente Marino, il direttore deve avere l'idromassaggio in casa, 40.000 euro per tende a uso personale, mobili, fatti figurare come campagne oceanografiche, ma non vi voglio levare la sorpresa della prossima settimana. Andiamo al primo posto, tanto l'avete già capito, ma state scavando o state cercando? And the winner is la linea 1 della metropolitana di Napoli. Allora, leggo la Corte dei Conti. Un esorbitante aumento dei costi sulle tratte in corso, tempi di realizzazione che si sono protratti in maniera abnorme. Ma state scavando, state cercando. È un atteggiamento di eccezionale favore nei confronti della concessionaria. 18 pagine indirizzate a Comune, Regione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 4 ministeri, EA, VNM, Metropolitana di Napoli S.P.A. Chiede la Corte dei Conti com'è possibile che in la più grande opera pubblica di Napoli, iniziata a metà degli anni 70, ma state scavando o state cercando? Dalla comparazione si legge con i costi delle linee metropolitane di Milano e Roma, e di Roma già particolarmente elevati, cioè la Corte dei Conti dice non è che Milano e Roma abbiano risparmiato, già costano più rispetto agli standard europei e siete riusciti a costare più di quanto già costano Milano e Roma, che sono più alte degli standard europei. Si desume, leggo nel lato della Corte dei Conti, un costo assolutamente superiore per metro lineare. Tra gallerie, pozzi, stazioni c'è un incremento a Napoli del 21% rispetto a Roma e del 14% rispetto a Milano. Nel dettaglio, la tratta centro direzionale Capodichino di Vittorio, il costo al 30 aprile 2007 veniva stimato in 365 milioni, a dicembre 2013 è aumentato a 652 milioni. Come cavolo hai fatto a spendere 300 milioni in più in 5 anni? La tratta Piazza Dante centro direzionale, il costo dapprima stimato in circa 350 milioni, secondo delibera CIPE del 1997, al 30 aprile 2007 era aumentato a 690 e al 31 marzo 2016 è aumentato a 1 miliardo e 700 milioni di euro per fare Piazza Dante centro direzionale su un costo preventivato di 350 milioni. Siamo arrivati a 1 miliardo e 700 milioni. Posso andare avanti? Leggo però. Ai raggi X è la concessione originaria con i sistemi con ricorso ai subaffidamenti, con moltiplicazione del rischio di infiltrazione della criminalità e soprattutto con l'istituto della revisione dei prezzi mantenuto fino al 2007, nonostante fosse abrogato dalla legislazione. La Corte dei Conti si chiede anche di riferire sul fenomeno delle piogge. Ma state scavando o state cercando? Delle piogge che allagano le stazioni e limitano la circolazione. E scrive la Corte dei Conti. Sono episodi sorprendenti, dice il magistrato della Corte dei Conti, vista la recente inaugurazione delle stazioni. Come cavolo fa a piovere già dentro con quello che sono costate e con quello che ci avete messo? Ma stavate cercando o stavate scavando? E soprattutto, cosa stavate cercando a questo punto? Il malloppo. Mauro Migliazzi, 39 anni, fondatore di Wesi. Buonasera. Buonasera a voi. Che cosa fa Wesi? Wesi è una startup che è nata nel 2016. Ad aprile si occupa di telerilevamento con droni. Ah, ma state scavando o state cercando voi? Ma noi cerchiamo normalmente. Ecco, bene, almeno voi. Gli altri devono scavare e hanno cercato. Voi dovete cercare, cercate e non scavate. Resti con noi dopo il GR24 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Sono Gigi Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Gigi Telesforo. Sabato e la domenica a partire dalle 19.15. Soundcheck. Sempre soltanto su Radio 24. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. I wanna be free. 18:08, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Devo dire che sono arrivati molti messaggi sulla battuta per la metropolitana di Napoli. In realtà la scritta originaria era: ma la metropolitana la state cercando o la state costruendo, la state scavando? Sì, ancora meglio, visti i tempi. Allora, Mauro Migliazzi, i tempi di realizzazione. Ancora una precisazione, qualcuno mi scrive: ma perché non parla del presidente dell'associazione anti-racket del Salento indagata? Ne parliamo la prossima settimana, così come anche appunto di Fanelli e di un'altra simpatica vicenda che riguarda il CNR di Napoli. Invece vorrei continuare con Mauro Migliazzi. 39 anni, avete fondato Wesi. Che cosa fa Wesi, chi vi ha dato i soldi e quanto fatturate? Allora, Wesi è una startup che è nata nell'aprile dell'anno scorso, si occupa di telerilevamento con sensori non convenzionali. Le applicazioni principali sono nell'industria e nell'agricoltura. Mm-hmm. Cosa fatturiamo? Attualmente siamo, come dicevo, siamo nati circa un anno fa. Il primo anno abbiamo fatturato circa 50.000 euro, quest'anno prevediamo di arrivare a 300.000 circa. Mm-hmm. E soprattutto abbiamo già raggiunto un round, abbiamo già chiuso un round di investimento di circa 200.000 euro, poco di più. Quindi questo ci permette di iniziare a creare un prodotto nuovo, che è quello che vogliamo fare noi, abbastanza innovativo nel settore. Mi scusi, ma se ho ben capito, il telerilevamento lo fate con i droni? Attualmente lo facciamo con i droni, sì. Ma mi dà degli esempi di applicazione, due o tre casi? Il fotovoltaico sicuramente è una delle applicazioni principali sulle quali abbiamo intenzione di creare un prodotto nuovo che oggi non c'è, per la manutenzione O&M, quindi per andare a ridurre i costi di gestione, soprattutto di grandi impianti. Stiamo parlando di impianti che possono andare dai 20-30 megawatt in su. Oggi noi siamo quelli che gestiscono la manutenzione termografica con drone nell'impianto più grosso in Italia e crediamo di poter creare un prodotto che possa essere facilmente esportato all'estero. E chi vi ha aiutato come soldi? Allora, noi siamo attualmente incubati, siamo dentro un incubatore che ci ha scelto l'anno scorso, che si chiama YLab. Uh-huh. A Chiavari, Genova, e ci siamo trasferiti tutti qua e abbiamo iniziato questo prodotto. Abbiamo recuperato da YLab i primi 25.000 euro. Uh-huh. Hanno creduto nell'idea iniziale, ci hanno dato un primo input per poter partire. Dopodiché, come dicevo, noi abbiamo iniziato a fatturare quasi da subito, perché oltre al prodotto che inizieremo a realizzare ora con gli investimenti chiusi, ma noi abbiamo iniziato con i servizi, quindi l'anno scorso abbiamo fatto servizi e ci siamo mantenuti in questo modo. Con la speranza di chiudere il round di investimento il prima possibile, ci abbiamo messo circa 8 mesi, quindi non moltissimo, e quindi ora insomma siamo nello sviluppo. Con le banche abbiamo rapporti ottimi, devo dire. Bene. non all'inizio assolutamente pessimi, diciamo che da quando le cose iniziano a girare non siamo più noi che le cerchiamo. Ma è quasi il contrario, però diciamo che attualmente noi abbiamo fatto una domanda per il medio credito e stiamo perseguendo questa prevalentemente con una banca in particolare, poi abbiamo rapporti anche con altri. Quanti siete? Allora, gli addetti di WC attualmente sono circa 8-9 persone. Mm-hmm. Di cui non tutti dipendenti, alcuni a partita IVA, alcuni una persona in stage e altri dipendenti. Comunque attualmente nel giro di un anno siamo circa 8-9 persone. Senta Migliazzi, lei cosa faceva? Lei ha meno di 40 anni, cosa faceva prima? Beh, io ho un'esperienza di circa 15 anni, quindi appena uscito dall'università nel telerilevamento con l'aereo, nella più grossa compagnia in Europa, che è la Compagnia Generale per le Riprese Aeree, e poi ho esperienza in università e col CNR, ho collaborato con l'ENI in esplorazione oil and gas, insomma ho esperienza di telerilevamento termico, multispettrale, da satellite e dall'aereo. Oggi il drone è la nuova frontiera, ma per me, insomma, che l'ho utilizzato per la tesi nel 2002, non è tanto il drone la novità quanto la miniaturizzazione dei sensori e il poter applicare, come si può dire, utilizzare delle applicazioni che prima erano priorità solo dell'aereo, erano esclusività dell'aereo, oggi con una risoluzione spaziale molto maggiore le possiamo applicare con i droni, che di per sé sono piattaforme aeree. Allora, in bocca al lupo, come sempre facciamo a tutti gli imprenditori, giovani non per l'età, ma perché giovane l'impresa che hanno lanciato, non a caso si chiama startup. In questa parte del programma è venerdì, per risollevarci un po' dopo la classifica, che oggi poteva andare avanti in un'altra ora e mezza. In bocca al lupo a lei e ai suoi collaboratori, grazie a Mauro Migliazzi, appunto fondatore di Wesi. La borsa, dicevamo, come lungo tutta la settimana, anche oggi non fa eccezione, si muove la borsa italiana sulle trimestrali, guadagna alla fine l'indice FTSE MIB lo 0,43%, Parigi 0,40%, Francoforte 0,40%, tutte allineate, Londra 0,60%, Dow Jones meno 0,11%, dicevo le trimestrali, la buona trimestrale del BPM, fa salire e anche tanto il titolo, più 6,16%, ieri ricordo utile netto più 7,5% nel primo trimestre a 117 milioni di euro e crediti deteriorati netti in calo di 2,2 miliardi che con un'incidenza sul totale degli impieghi del banco BPM che scende dal 15% al 13% e quindi il titolo guadagna bene, anche Unipol più 2,60 come ricordati, Telecom più 2,40%, la trimestrale buona, sono tornati gli acquisti oggi e poi come diciamo anche in apertura, ormai notizia di tutta la settimana, si attende di capire cosa farà di Vivendi, chi sceglierà tra Telecom e Mediaset. E su questo chiaramente di riflesso anche su Mediaset che oggi invece perde lo 0,44%. Tra i titoli che sono andati bene segnalo anche Italgas più 2,15, Unicredit più 2, Azimut più 1,60 come Fineco Bank più 1,5%. Invece i conti di Prismian non sono piaciuti al mercato, ma le prospettive sul 2017 soprattutto. I ricavi meno 3,7%, l'utile nel primo trimestre 37 milioni, il titolo perde il 2,80%, Buzzi Unicem cede il 2%, Tenaris l'1,20%, Unipol sai l'1%, migliori e peggiori in assoluto, Net Insurance più 15%, TBS più 15%, Carraro più 10%, fronte opposto Invest meno 11%, Cementi Holding meno 6,70%, Italia Online meno 4,40%, SafeBag meno 4,40%. Andiamo sul traffico e poi parliamo dell'unica cosa uscita oggi rilevante dal G7 e quindi l'ipotesi di un accordo sulla web tax, sulla tassazione degli utili dei grandi colossi del web. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Nuovo in diretta per l'ultima parte di Focus Economia, come è parzialmente anticipato in apertura quando abbiamo commentato le notizie, non tantissime, che sono arrivate in questa prima giornata del G7 e dei ministri delle finanze a Bari, secondo quanto riferiscono fonti della presidenza italiana, dovrebbe comparire nel documento finale una richiesta esplicita da parte del G7 all'OCSE di elaborare proposte concrete, policy options si chiamano, sulla tassazione dell'economia cosiddetta digitale, quindi insomma tutti i grandi colossi del web ma non solo. Questo nel rapporto che la task force dovrà presentare a marzo. Tra l'altro, secondo le fonti, insomma, si tratterebbe anche di un successo italiano, visto che sul tema le posizioni dei vari paesi erano divergenti. E insomma, parliamo di web tax, lo facciamo con il collega del Sole 24 Ore, Giovanni Parente. Buonasera Giovanni. Buonasera a voi. Se ben ricordo, la web tax vorrebbe dire un accordo di carattere internazionale per cercare finalmente di capire dove e in quale misura, quindi quanto, i colossi del web devono pagare le tasse. Tra l'altro questo riguarda direttamente anche la manovra correttiva nostra, perché se ho ben capito ci potrebbe essere una norma transitoria per permettere ai big del web di trovare un accordo preventivo con il fisco italiano. Adesso vi arriviamo. Faccio notare che in Italia i colossi del web pagano di tasse poco, al di là dell'accordo ottenuto dall'Agenzia delle Entrate con Google, che adesso verserà al fisco italiano 306 milioni di euro, e poi dell'accusa della Guardia di Finanza dello scorso fine aprile ad Amazon di aver evaso 130 milioni di euro. Dicevi, i colossi web pagano Booking.com 3,9 milioni di euro l'anno di tasse, Amazon 2,6 milioni, Google 2,2 milioni. Facebook arriva a pagare 200 mila euro di tasse, cioè quanto un contribuente ricco italiano, no? Twitter 112 mila euro di tasse, anche qui come un medio contribuente, medio alto per carità, ma 112 mila, come uno che guadagnasse 220 mila, 240 mila euro in Italia, pagherebbe la stessa cifra. Airbnb paga 45.000 euro di tasse. Io non voglio criminalizzare nessuno, ma non è possibile che la tassazione sia per chi ha gli stipendi che, intorno ai 200.000, 120.000 euro lordi, 200.000 euro, la maggior parte della tassazione è tutta al 43%, quindi tu guadagnando sostanzialmente 250.000 euro lordi all'anno paghi come tutto Twitter in un anno in Italia, e paghi tre volte quello che paga Airbnb, e paghi sostanzialmente come paghi la metà da singolo contribuente di quello che paga Facebook in un anno in questo paese. E il ministro Padoan sulla web tax, al microfono la nostra Teresa Trillò. Tassazione è un terreno sulla quale la cooperazione internazionale ha fatto moltissimi progressi e noi siamo sicuramente molto a favore di questo. La cosiddetta web tax è un tema che sta prendendo corpo, ci sono diverse posizioni nazionali, ma il G7 serve a convergere verso visioni comuni e su questo lavoreremo. E poi sempre sul tema, la nostra Teresa Trillò ha aggiunto anche Domenico De Bartolomeo, che è il presidente di Confindustria Bari BAT. Beh, devo dire che noi riteniamo che la soluzione di questa, diciamo, problematica, che devo dire è stata sollevata soprattutto, devo dire, anche da alcuni parlamentari nostri, uno degli interpreti maggiori è stato proprio Francesco Boccia, secondo noi la soluzione di questo problema è una soluzione che può portare un buon risultato all'Italia e serve a regolamentare un settore che è importantissimo. Allora, Giovanni Parente, che cosa dovrà ottenere questo accordo e nel frattempo cosa capiterà in Italia con la cosiddetta norma di transizione che dovrebbe essere presente nella manovra bis? L'accordo punta ad ottenere dei criteri di tassazione in dove viene prodotto del valore. Quindi adesso ci troviamo davanti a dei big del web che hanno sostanzialmente non hanno confini, quindi è difficile individuare qual è il loro fatturato e quindi sostanzialmente i loro redditi all'interno di, sì, dei singoli paesi. Probabilmente... Sì, ecco, preciso a chi scrive al 349-238-6666, che io non ho detto che tutte le tasse pagate siano solo queste, perché loro poi dicono che le tasse le pagano a Dublino, in alcuni casi, dove più conviene. Io ho detto che le tasse pagate in Italia per l'attività svolta in Italia, non ho neanche il dato sulle tasse che complessivamente pagano in Europa. Il problema è che la vecchia regola è che tu paghi le tasse da dove produci il fatturato, no? Esatto. Il reddito. Esatto. C'è un problema, per dirla tecnicamente, di stabile organizzazione, no? Parola grossa, ma in realtà se sei stabilito in Italia o anche in maniera implicita devi pagare per quello che produci in Italia, per i beni che cedi o per i servizi che presti sul territorio italiano. È chiaro che è molto difficile individuare per il tipo di attività, per il tipo di filiera che hanno questi over the top, dove viene prodotto il valore, come viene ceduto, perché molto spesso c'è l'intermediazione da parte di soggetti che sono ubicati su in altri paesi, e questo il G7 almeno dovrà fissare dei criteri guida per poter arrivare a un livello di tassazione condivisa, perché è chiaro che se si muove l'Italia da sola poi rischia di fare un passo disallineato rispetto ad esempio alla Francia, alla Germania, ma agli Stati Uniti o al Regno Unito. L'Italia dal canto suo sta cercando di fare un piccolo tratto di strada. Abbiamo visto che l'amministrazione finanziaria l'ha rivendicato stato di nuovo la Orlandi, che è quella che si è mossa per poter arrivare a degli accordi, insomma, dopo una contestazione che è stata mossa nei casi di Google, di Apple, ma ci sono anche i casi di Amazon e Facebook su cui si potrebbe arrivare a un accordo, ma è un accordo successivo. Che cosa cerca di fare l'emendamento che è stato presentato a Francesco Boccia, che è presidente della Commissione Bilancio della Camera? Cioè di trovare su via opzionale un accordo preventivo, quindi fissare, per dirla volgarmente, un meccanismo di tutoraggio per cui Agenzia delle Entrate e questi over the top, ma anche, insomma, non solo i big della rete, definiscono qual è il perimetro su cui applicare le imposte in Italia e quindi si possa definire qual è preventivabile. Quindi senza arrivare poi alla contestazione dell'Agenzia delle Entrate al Guardia di Finanza nel caso di Amazon, o la contestazione dell'Agenzia delle Entrate per quello che riguardava Google, prima di arrivare alla contestazione tu definisci prima, guarda che noi, secondo noi tu più o meno, se ho ben capito, hai un fatturato italiano, diciamo, che quindi noi vogliamo tassare perché si genera in Italia, intorno a questo ordine di grandezza, poi immagino che il soggetto risponderà no, per noi è meno, ci sarà, diciamo, alla fine un accordo però preventivo, quindi tu non vai in contestazione e l'altro sa quanto deve pagare più o meno. Esattamente, è sulla falsariga di un meccanismo che è stato già introdotto con l'ultima riforma fiscale, e quindi si cerca con le grandi imprese di arrivare a una sorta di maxi tutoraggio per poter definire preventivamente quali sono i criteri di tassazione sul fatturato italiano. Quando arriva, questa è la parte transitoria italiana. Sulla web tax, a livello più invece paesi OCSE, aspetteremo marzo, se ho ben capito, a questo punto. È uno snodo fondamentale quello di marzo, per capire se effettivamente c'è la volontà politica di arrivare a un accordo e di vincere la resistenza dei paesi che finora insomma sono stati molto strenui difensori, infatti, di una tassazione che non fosse localizzabile. E quali sono i paesi, diciamo, che capifila di questa, diciamo, resistenza? Che, diciamo che gli Stati Uniti non hanno fatto, sicuramente non hanno steso i tappeti rossi per poter fare una norma di accordo internazionale, ma neanche, insomma, c'è chi ha delle piccole isole felici da un punto di vista di basso prelievo fiscale anche all'interno della stessa Unione Europea. Hai citato prima il caso dell'Irlanda, del Lussemburgo. Ci sono casi evidenti che si potrebbero anche definire di dumping fiscale all'interno della stessa Unione. No, sono i dumping fiscali, questo poi ci porterebbe all'altro grande tema, e cioè che al di là dell'Unione Europea politica o quant'altro, qui se tu non fai una armonizzazione di carattere fiscale inteso come tasse, continui a farti concorrenza interna con la stessa valuta, non si può, sarebbe come se le regioni italiane potessero applicare ognuna una sua tassazione facendosi concorrenza interna pur avendo però una moneta unica nazionale, e questo poi crea grossissime disuguaglianze e sperequazioni anche. Grazie anche a Giovanni Parente, visto che ci avviamo alla conclusione praticamente, non mi resta come sempre a quest'ora e il venerdì che ringraziare Mauro De Con e Barba Bianchi per l'assistenza anche questa settimana in redazione e in studio, augurare a voi un buon fine settimana, soprattutto a partire da chi dovrà passarlo lavorando, e noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24, libera la voglia di fare.